Un saluto a tutto il Meetup Napoli e alla cittadinanza partenopea in ascolto. Io sono Gennaro Giuliano e praticamente volevo illustrarvi per pochi minuti un po' diciamo, i punti ai quali il tavolo della disabilità che io ho avviato comunque da prima dell'estate, che raggruppava comunque un insieme di persone sensibili alla tematica, aveva raccolto comunque in questo percorso che abbiamo fatto, diciamo, fino a pochi giorni fa, e che comunque è un percorso che andremo a continuare. Anche in vista poi dopo delle elezioni comunali, diciamo, a Napoli nel 2016. E niente, comunque volevo soffermarmi praticamente su questi un po' questi principali punti che il tavolo ha ritenuto, diciamo, principali. Come quello, diciamo, delle barriere architettoniche, specialmente per quanto riguarda i piani PEB, che è una legge nazionale a cui tutti i comuni in Italia devono ottemperare e che purtroppo, diciamo, da questo punto di vista ci sono molte inadempienze. E ci risulta che anche, diciamo, il Comune di Napoli non abbia assolutamente, diciamo, un piano del genere. Poi dopo un po' abbiamo ritenuto opportuno soffermarci, come, diciamo, sempre come spunti e problematiche su questo adeguamento, sempre di questo piano PEB della legge del 1986, anche prendendo comunque spunto dalla mozione fatta dal comune di Torino, dai nostri, diciamo, consiglieri del Movimento 5 Stelle. Poi un'altra cosa che riteniamo anche debba essere presa in esame come idea valida, quella comunque di una formazione, di una consulta permanente, anche se sappiamo che comunque il Comune di Napoli ha istituito durante questa legislazione diciamo, queste consulte, però a dire la verità non è che, diciamo, le abbia fatte comunque partire, quindi soltanto un qualcosa sulla carta. Poi un altro, diciamo, aspetto, un'altra idea e proposta, insomma, sempre maturata dal nostro tavolo della disabilità, quella anche cioè di un monitoraggio di tutte le strutture comunali, in special modo quelle che risultano poi praticamente in situazioni, diciamo, di abbandono. E anche quelle poi praticamente sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, per fare in modo che le medesime possano poi dopo essere affidate a delle associazioni o cooperative di disabili per favorire la socializzazione e l'integrazione. E poi dopo, sempre tra le altre, diciamo, proposte valide, abbiamo trovato quella praticamente, insomma, di rivolgerci nel settore anche diciamo, dell'informatica, per quanto riguarda, diciamo, dei corsi di alfabetizzazione digitale da tenere sempre da persone comunque disabili, e Poi anche un altro argomento, anche che diciamo è stato comunque discusso e sentito, e tra l'altro per quanto riguarda, anche prendendo lo spunto da altri comuni italiani, insomma il comune di Torino si è anche attivato da questo punto di vista, cioè quello di creare degli sportelli per quanto riguarda, cioè, il rapporto tra la disabilità e la materia, diciamo, della sessuologia, cioè che comunque è anche un aspetto insomma abbastanza sentito e delicato, che comunque poi dopo coinvolge anche tante figure diciamo sia professionali, insomma, che possono essere medici, psicologi, e anche specialmente figure legate nell'ambito della genitorialità, cioè genitori dei disabili e ovviamente i disabili stessi. Poi un altro argomento anche in merito alla disabilità, che sempre per fare, diciamo, un po' una sintesi del nostro tavolo, quello comunque sempre di un occhio di riguardo sempre all'abbattimento delle barriere, specie per ciò che riguarda i parchi pubblici e le spiagge pubbliche, e soprattutto, diciamo, oltre proprio all'abbattimento delle barriere fisiche, delle barriere mentali. Poi abbiamo comunque anche inserito tra le varie proposte un po' tutto quello che concerne anche il rapporto, diciamo, della disabilità con il web, cioè creare comunque un portale per avere un monitoraggio un po' di tutte le, diciamo, le persone che sono comunque hanno questa problematica con la disabilità, favorire anche il rapporto con le amministrazioni da questo punto di vista. E poi, diciamo, niente, molto probabilmente noi stiamo in fase, diciamo, che abbiamo voluto chiamare questo cammino fatto fino adesso, ecco, cioè questo percorso sulla disabilità, che praticamente è in fase conclusiva, e dentro sabato noi praticamente lo pubblicheremo su diversi portali, per poi dopo farlo condividere con la cittadinanza, tra i quali il gruppo Facebook Disabilità e Dintorni Campania, sul Wikia della disabilità, e poi anche su uno spazio su Google Documenti, in modo che le persone possano comunque, i cittadini possano comunque contribuire eventualmente, diciamo, a migliorare un po' questi punti che noi abbiamo trattato, ad andare ad integrarli con altri punti, e per poi dopo, alla fine, diciamo, inserire questo percorso anche nel wiki del Movimento 5 Stelle Napoli, a cui poi noi daremo comunque il link. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, e vi saluto, mi scuso un po' per questa web improvvisata, ma purtroppo avendo io, diciamo, problematiche nell'aggregazione per quanto riguarda i luoghi assembleari del Meetup Napoli, ho ritenuto che questa, diciamo, potesse essere la forma più diretta per mettervi un po' a conoscenza e fare un po' una sintesi, diciamo, di questo nostro lavoro portato avanti, diciamo, sulle tematiche della disabilità, del quale poi dopo nei giorni e nei mesi a venire, insomma, vi continueremo ad aggiornare. Un saluto a tutti e alla prossima.